Intanto ringrazio Roberto Grandi per il lavoro fatto finora insieme a tutti i suoi collaboratori. È stato, come vedete, in questi anni un lavoro prezioso e sta continuando al meglio perché oggi ospitiamo qui giovani artisti che vengono da ogni parte d'Italia e da tanti luoghi del mondo. Questo corrisponde alla cifra di Bologna, delle sue origini, ma è anche la sua forza nel contemporaneo. Continuare a essere una città attrattiva, accogliente e capace di dare possibilità di scelta. Si sceglie di essere bolognesi sempre più e la nostra forza sta nel fatto di riuscire a avere, continuare e consolidare questa capacità di attrazione. Sono qui soprattutto per dare un benvenuto ai giovani artisti, complimentarmi con loro per aver superato la selezione. Avranno a disposizione spazi propri ma anche spazi condivisi, perché la creatività, come insegna l'origine di questa città, è soprattutto la capacità di lavorare insieme, di fare squadra e di saper cooperare. Parole vituperate nel mondo moderno, ma sono la forza di Bologna e su questo andremo avanti.